Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. La testata violenta mi ha fatto capire molte cose. Allora, cominciamo dall'inizio. Perché non dalla fine? Sa, taglia cose è una gran provocatrice. Non spreca energia, eh? Ci sono cose molto più importanti che provocare me. E poi questa abitudine di parlare di sé in terza persona sta diventando insostenibile. Dunque, cosa legge lei? Non ho bisogno di leggere, vivo di vibrazioni, spesso di natura extrasensoriale. Abbandonando per un istante l'extrasensoriale, che cosa intende lei per vibrazioni? Come si fa a spiegare con la volgarità della parola la poesia della vibrazione? E non lo so, ci provi? Io sono un artista, non ho bisogno di spiegare un cazzo. Bene, allora scrivo vive di vibrazioni, ma non sa che cosa sono. Comincia a non piacermi questa intervista. Percepisco da parte sua una conflittualità. La conflittualità come vibrazione? La conflittualità come rottura di coglioni. Parliamo dei maltrattamenti che ho subito dal fidanzato di mia madre. No, io voglio sapere che cos'è una vibrazione. Il mio radar per intercettare il mondo. Un radar, vale a dire? Rompe i coglioni. Senta, siamo partiti male. Taglia Concept ci tiene all'intervista con il suo giornale. Ha tanti lettori. Ma lei è prevenuto. Perché non la fa parlare del suo fidanzato con il quale fa l'amore 11 volte al giorno? È che è un artista concettuale mica da poco. Rielabora palloni da basket con i coriandoli. Un'idea sensazionale. Senta, Talia Comset parla di cose di cui ignora il significato. Io di lei finora solo fuffa, impubblicabile. Se lei crede che io mi lascio abbindolare da... Questa è una delle parti più felici del film di Sorrentino, La grande bellezza, in cui Jep Gambardella intervista la grande attrice concettuale, che poi è in realtà l'imitazione o la presa in giro di Marina Abramovic, che a sua volta è la presa in giro di tantissime altre cose, che però ha una grande credibilità. L'artista concettuale si basa sul consenso delle persone che non fanno lo sforzo di capire profondamente se ella sia artista o no, ma si fermano sulla sua indecifrabilità come fenomeno collettivo di consenso. Guai fare la parte del parvenu, dell'ignorante, di colui che non vive la sua epoca, quindi non capire il messaggio della grande artista. Abramovic, somma paracula, è una persona che si produce artisticamente stando seduta su una sedia, guardando in faccia le persone che gli passano avanti, e questo è considerato come un atto sublime. Art is body, is double body. Che cosa ancora? Double body, everybody, nobody. Questo non è gioco, questo è performance. Però quando Virginia Raffaele, una comica, prende in giro l'Abramovic in un teatro, tutti ridono, perché ci si rende conto che è re nudo improvvisamente. Ci si rende conto che noi viviamo spesso, ma soprattutto nella contemporaneità, in una grande presa per il culo collettiva che si regge solo sul fatto che tutti, dopo aver avuto tutto, non aver avuto niente ma ambire a tutto, si ritengono comunque capaci di interpretare quello che comunemente oggi viene considerato un'espressione artistica. Di questo parliamo tra poco. Melog. Cronache meridiane. Amici, perché siamo ora giunti al momento sacro della statosta. Sto infatti per presentarvi una nuova, splendida, straordinaria realizzazione dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Eccolo qui. Guardate l'audacia di quest'opera che il maestro Scrofalo è riuscito a dipingere al contrario. Infatti quest'opera il maestro l'ha dipinta coi piedi attaccati al soffitto e la testa all'ingiù. Oh, devo anche dirvi che mentre la dipingeva era completamente nudo. Sempre in questa posizione, completamente nudo, il maestro Scrofalo riceveva in questo periodo i suoi clienti. Oh, devo dire appunto che quest'opera risale al periodo figurativo, cioè quando lui faceva certe figure. Ma certe figure, basta guardarlo. Oh, se qualcuno non amasse questa tematica, non ha problemi, perché l'opera è rivoltabile, come tutte le opere del maestro Scrofalo. Anzi, direi che più che rivoltabile, è un'opera veramente rivoltante. Attenzione signori, chi offre qualcosa... Ve la ricordate la statosta di Enzo Greggio in Drive-In, c'ha sempre questa sorta di maestro scrofalo in quest'opera allucinante, e Greggio continuamente la vendeva e aveva dato celebrità comunque a questa sorta di opera assolutamente inguardabile. Però allo stesso tempo, ironizzando se stesso, era uno dei momenti più felici di Ezio Greggio, quando ancora poteva sembrare in realtà una trasposizione comica satirica rispetto a una società. Poi è diventata la stessa società che lui rideva, come sempre accade in questi che hanno delle fulminazioni geniali, poi naturalmente devono affidarsi al mercato, che non è un limite. Beh, oggi abbiamo detto che vogliamo osservare i paradossi di quello che oggi viene considerato vivere comunque una sensibilità artistica, quindi acquistare opere, vendere opere, produrre opere e andare ai vernissage dove si espongono opere, attaccare delle opere al muro di casa propria, osservare delle opere a casa degli amici, andare a delle mostre e seguire comunque degli artisti, riuscire a impapocchiare qualche chiacchiera sull'arte quando si mangia la pizza mentre si scarrella sullo smartphone. Tommaso Labranca, buongiorno. Buongiorno. Tommaso Labranca è un pazzo che ha scritto un libro che è quasi 300 pagine proprio per raccontare questo allucinante viaggio fra creatori, mediatori e fruitori dell'arte. Il titolo del libro, di cui Tommaso Labranca è anche editore, autore editore, è Vraghinaroda. Vraghinaroda mi insegna Labranca che è un termine russo. A me sembra una di quelle battute, visto, per introdurti subito al tema, di quelle battute si faceva da bambini quando si diceva, che ne so, c'è un furgoncin, il più grande trasportatore giapponese, poi c'era sempre Vagina Seminova, che era la più grande donna di malaffare russa. In realtà cosa vuol dire Vraghinaroda? Beh, in effetti ero partito da quel presupposto. Me lo immaginavo, avevo letto che c'era dietro Vagina Seminova subito, sì. Invece... Blanca Sbilenca. No, è praticamente una traduzione, poi viene unita, del termine Vraghinaroda, che è appunto diviso, che in russo significa nemici del popolo. È un termine a cui diede molta popolarità Stalin, quando non sapeva di cosa accusarti, ma gli stavi antipatico, ti diceva, sei un nemico del popolo, via, sparate, fucilate e via. Invece, Abramovic sarebbe stata considerata una nemica del popolo? Io penso di no. Guarda che mi sono molto ricreduto sull'Abramovic scrivendo questo libro. Io sono partito da una frase che era, spero che un giorno Marina Abramovic troverà un lavoro serio, che poi non ho neanche più incluso nel libro perché... ho cambiato veramente opinione su di lei, sugli altri no, ma su di lei sì. Beh, una grande ammirazione, una persona che riesce comunque a millantare per un così vasto lasso di tempo il fatto che ella si produca artisticamente. Immagino quella scena fantastica in cui la rimandano continuamente a televisione, perché è molto commovente, che lei nella sua performance in cui guardava le persone in faccia, stava lì inchiodata su una sedia con un vestito rosso e il pubblico faceva la coda e sedeva davanti a lei. In quel momento esplodevano le emozioni. Poi gli si presenta davanti l'ex fidanzato, probabilmente l'unico vero artista della famiglia da cui lei si ispirò, e improvvisamente lei lo guarda e poi c'è questo atto di commozione, che si alzano e si abbracciano. Ecco, descrivimi dal tuo punto di vista, da commissario del popolo di Vraghinaroda, come definisci questo momento che tutte le commesse della UPIM conoscono, perché lo vedono continuamente in televisione. Ecco, quello è il punto più basso dell'Abramovic. Come ho scritto, lì c'è veramente un passaggio dal Grande Fratello a C'è Posta per Te, perché The Artist is Present nasce proprio come un darsi al pubblico, perché il pubblico ha fame non tanto di arte quanto di personaggi legati all'arte, quindi l'artista. E ha questa intuizione, mi siedo, e ha fatto sempre cose di questo tipo. Poi con l'età naturalmente sono diventate molto morbide, molto molli, cioè stare seduto lì a guardare le persone. Sì, prima era nuda, si metteva nuda su un palco, fatemi quello che volete. Poi dopo, con le smagliature, con il tempo, ha pensato bene che era meglio coprirsi, forse. Esatto, ti parlo degli anni 70 comunque. In quel momento appunto in cui lei sta seduta per 9 ore al giorno, fissando la persona che ha davanti, in un rapporto dovrà essere di freddezza comunque, per me dovrà essere mettere un cuscino antimorroidale, quello che mettono i camionisti, perché... avesse una ciambella, no, ma poi c'è tutto lo sviluppo, perché i giornali americani non sono come i nostri che partono su, l'arte, la bellezza. No, no, io ho proprio parlato di, ma come faceva a fare la pipì Marina Abramovic 9 ore, cioè c'è nata la discussione. Aveva un catetere con un secchio sotto. C'è il catetere. ripetere, chi dice un pannolone, chi dice che, come la sua, diciamo, la sua detta stampa, diceva no, Marina sa trattenersi perché ha il perfetto controllo del suo corpo. Beh, cioè, ormai è una mistica, come i mistici, come quelle mummie buddiste che ritrovano, c'ha 6.000 anni ma è ancora vivo. Stava lì, controllava tutto, controllava le emissioni, le intromissioni. Ma e invece no, perché in un'altra performance all'inizio degli anni 2000, che poi finì anche in Sex and the City, in una delle puntate, lei era sempre così a vista sul pubblico, ci faceva vedere costantemente 24 ore al giorno e espletava i suoi bisogni anche davanti al pubblico, c'era un batter sul palco. Vabbè, si chiama pissing, è una pratica da YouPorn, però dov'è l'altro? Ma l'effetto era diverso. Comunque in quel momento, quando lei ritrova il suo ex fidanzato e lo tocca, lì veramente non avrebbe dovuto, perché ti dico, la freddezza che c'era nelle prime edizioni del Grande Fratello, quando tu guardavi questi pesci nell'acquario. E poi è diventata veramente una cosa, se posso per te, caramba, che sorpresa, si presenta questo qua e lei... Ma come puoi immaginare poi che lo arriva lì per caso e lei non lo sapesse? Scusa, personaggio notissimo. Ma figurati, lo sapeva benissimo, come sapeva quando arrivavano i VIP, che praticamente chiudevano il museo, cioè arrivava Bjork, arrivava l'attore James Franco, chiudevano il museo e questi si sedevano lì davanti per dire sono andato anch'io. Sapeva tutto. Poi c'era le comparse, non far finta di piangere, di svenire, di andare in deliquio. Quello che una performance del genere abbia causato poi una sindrome di Stendhal, come queste signore hanno di fronte agli Chagall, che abbiamo visto mille volte sul poster nelle scatole dei cioccolatini, mi sconvolge. Io ho trovato veramente dei commenti fuori luogo. Ecco, ma perché l'hai rivalutata? Però voglio capire. Visto che l'ho rivalutata. È la quintessenza della cialtronaggine. Un trescista come Sorrentino è divertente, la fa dire che dà le capocciate sulle rovine dell'acquedotto romano, si presta tutto però. La vera fuffa del mondo dell'arte per me è questo cinese, Ai Weiwei, che io ho definito appunto Kung Fuffa, perché lui non fa veramente niente, lui prende i vasi antichi, li dipinge, li rompe, ha un blog, cioè è veramente il vuoto. Quando guarda, settimane fa uscì paginoni interi su lui che rompeva i vasi su un illustre quotidiano italiano. Sono 25 anni che lo fa, quindi si accorge se ne adesso. Invece Marina sembra una marca di cellulare, però forse per questo oggi va tanto. Weiwei, sì, esatto. Ho rivisto le cose vecchie che ha fatto ed erano molto sentite, per di più poi in un periodo ben diverso della storia. Oggi non ci meravigliamo più di niente, è tutto veramente spettacolo. Ma quando faceva queste cose negli anni 40, negli anni 70, in cui veramente si metteva a disposizione del pubblico napoletano in questa galleria dove hanno cominciato a fare di tutto, a tagliuzzarla, a picchiarla, cioè, capisci che aveva un altro senso la performance. Ecco, descrivi, allora lei si metteva stesa su una sorta di tavolo anatomico con degli oggetti, c'era anche una pistola mi pare, le piume, pistola, fatemi ciò che volete. Esatto, per 6 ore a disposizione del pubblico, che le prime rimase un po' così intimidito e poi si lasciò sempre più andare fino a praticamente hanno dovuto fermarli perché stavano veramente esagerando, cioè la stupravano. Dunque, mancava poco, ma l'azione che lei voleva era quella, cioè scatenare, l'idea era quella, scatenare la bestia che ci sono in uomo. Davvero c'era anche una pistola carica o faccia parte della contraffazione? Dicono che la pistola fosse carica, ma figurati, so. Ma figurati, la pistola carica, sì, ma la pistola ventosa è pistola carica, adesso non esageriamo. Per creare drammaticità era così comunque, erano altri tempi, oggi purtroppo la fruizione, non tanto la produzione dell'arte, quanto la fruizione dell'arte è talmente cambiata, è talmente diventata insopportabile, che poi mi ha spinto appunto a scrivere. Ma quando è avvenuto questo, secondo te? Vediamo di definirlo negli ultimi decenni, perché è un fenomeno abbastanza recente. Tu quando individui l'ora X in cui veramente comincia la fase vomitosa dei fruitori d'arte? Allora, l'ora X avviene nella metà degli anni 60, questa seconda parte degli anni 60. Ah, molto indietro quindi, figurati. Sì, aspetta però, perché arriva questo nuovo direttore nel museo New York e decide di far ballare le mummie, come disse lui, cioè di fare qualcosa che fosse più spettacolare del solito museo noioso. Crea questa mostra sugli antichi egizi che praticamente raccoglie talmente tanta gente che intorno al museo c'erano code infinite. Poi bisogna aspettare però gli anni 80 con la nascita del Beaubourg parigino, nel senso che lì sono cominciate le grandi mostre, le grandi retrospettive, la mostra su Dalì, andavi, dovevi darti 4 piani di mostra, comprarti il catalogo, il poster, l'orologio e così via. Beh, si inventò un format, poi fu inventato un format. Esatto, che poi tra l'altro gli stessi francesi che l'hanno inventato l'hanno criticato, perché Jean-Claire butta sul piatto in cui hanno mangiato i francesi per decenni. Dopodiché oggi in ogni paese, ogni proloco rimette lo stesso format, il catalogo, esatto, i gadget, esatto, il percorso, tutto c'è. Tant'è che Milano è stata la prima città a riprendere, perché negli anni 80 Milano aveva quest'ansia di fare Parigi, di copiare il Beaubourg, c'erano i socialisti qua e c'erano i socialisti là e così via. come adesso Milano è la prima città ad andare contro queste cose, perché c'è il nuovo sovrintendente di Brera che continua a dire no, no, basta con le grandi mostre, piccole cose, due quadri alla volta, che sono anche scelte condivisibili. Quindi tutto nasce in quel periodo, e nasce in Italia, io trovo, con la mostra Futurismo e Futurismi, che fu fatta verso 85-86 a Venezia. Sì, c'erano le cavatte di balla, si vendeva di esatto, tutto. Esatto, bisognava andarci per forza. Io comprai la cavatta di balla, mi ricordo. Sì, rimasi affascinato. Mi sembrava assurdo riavere una cavatta che potesse essere stata pensata, immaginata, che ne so, decenni prima, capito? Quindi me la comperai. Certo, ma erano comunque anche una novità. Sì. La prima volta che vedevamo queste cose. C'era il catalogone con la copertina argentata, mi ricordo, argentata. Bellissimo. Come no, ce l'ho un gadget. Io due ne ebbi. Figurati. E quindi è cominciato di là e poi si è andato avanti. Il problema però di queste grandi mostre è che a volte non contengono nulla. Io faccio sempre l'esempio della grande mostra su Edward Hopper, questo grande pittore americano che tutti, di cui tutti conoscono almeno un'immagine, anche se non sanno che magari la dico. Sì, oggi poi soprattutto è l'immagine di sfondo di tanti profili Facebook. Ah, ecco, veri. Ecco, i musei piccoli americani che hanno un'opera di Hopper non mai penserebbero di darla in prestito per 6 mesi, perché è l'unica attrazione che hanno. Quindi la mostra si ridusse a un quadro e una serie di disegnini, lettere, quadri dello stesso periodo dovuti ad altri, che dici ma basta, cioè chiudiamola qui. Mi dici perché edizioni 20.090? Perché il codice dell'avviamento postale è mio e del direttore artistico, pur abitando in due paesi diversi abbiamo lo stesso capo. Vraghina Roda, viaggio allucinante tra creatori, mediatori e futuri dell'arte, edizioni 20.090, che è il codice di avviamento postale di Casa Labranca e anche la casa editrice che pubblica i suoi libri. Ci fermiamo un istante, tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog, cronache meridiane. Gentili telespettatori, da Andrea Di Pre, ben trovati, sono a Fiumicino, Roma. Torna sui grandi schermi, torna nelle vostre case l'arte di uno degli artisti più validi che ci sono ancora viventi, abituato a calcare le scene più importanti del mondo. Un artista che ha dovuto superare incidenti, violazioni incredibili, ma oggi è qui per entusiasmarvi e soprattutto per permettere ai grandi collezionisti di entrare di nuovo nel suo mondo, dell'artista Giacomo De Michelis. Giacomo, è un piacere essere qui con te in questo momento. Piacere mio. Allora, dopo 8 anni ritorno, Dopo 8 anni torni a Roma, che ti ha visto nascere nel 30. Perché sono stato 2 volte con l'olio santo in fronte e l'ospedale, dopo 8 anni, mi hanno dato la possibilità di rimettermi a dipingere. Chiedo scusa perché mi ascolta, non rido mai, sono 30 anni faccio radio e non mi viene mai da ridere. Però ho una domanda da fare a Tommaso Labranca, ricordo autore del libro Vraghina Roda, che è un viaggio allucinante, creatore, mediatore e futuro dell'arte, edizioni 20.090. Allora, fenomeno Dupré, è passato da questo artista assolutamente improponibile a coche mignotte per tutta la notte. Questo me lo devi far capire te. È stato una deriva di marketing, una scelta obbligata o un'evoluzione? È stato uno di quei casi che io chiamo astronomici. Gli astronomi ormai, diciamo anche dall'Ottocento, scoprono i pianeti basandosi sui calcoli e non sull'osservazione diretta. Ecco, Ezio Greggio, quando faceva la statosta, aveva previsto l'arrivo di Dupré senza comunque conoscerlo. Lui per anni su YouTube faceva presentazioni di questo tipo di artisti, alternando ogni tanto con qualche pornostar così. Alla fine si è buttato un altro tipo di operazione. È andato lì dove Sgarbi non ha avuto il coraggio di andare, nonostante sia chiaro che il suo modello di riferimento, sì, lui è un trash di Sgarbi in assoluto, sì, totale, l'emulazione di Sgarbi, uno Sgarbi dei poveri terribile, sì, terribile, le, esperto, da, però capisci, Sgarbi dietro l'urlo, dietro la, la scenata televisiva ha una formazione, una preparazione soprattutto su certa pittura ferrarese che il nostro signore se lo dimentica, cioè non l'avrà mai. Beh, Sgarbi ha studiato, poi Sgarbi si è collocato meglio, ha fatto delle scelte migliori anticipando poi la fase mignottesca, capito? Lui no, ci si è buttato a pesce. Lui è diventato subito un termine che non mi appartiene, mignottaro, è diventato subito praticamente. Invece Sgarbi c'è arrivato dopo, ma così giusto per dare colore al personaggio. E lui è diventato, diciamo, il mentore di Sara Tommasi. Esatto. Hanno fatto una canzoncina, Coca e Mignotte per tutta la notte, si mostrano spesso sotto effetto palese di cocaina, lui completamente sballato, fanno dei video che sembrano quei video che andavano negli anni 70 con gli effetti elettronici, via dicendo, e non si sa cosa faccia. Forse è una sorta di Abramovic degli anni 2010, non so cosa pensa di essere. È diventato lui l'opera d'arte in ogni caso. Esatto, è quello che fanno, cioè tutti i dannunziani, perché Sgarbi è un dannunziano, tutti i dannunziani, D'Annunzio poi era già copiato dai Sinceri e da altri. Penso che quel che rimane di D'Annunzio si rivolterà nella tomba pensando che alla fine questo è l'esito. Questo è il risultato. Comunque loro pensano veramente di diventare opera d'arte, cioè la mia vita, il mio personaggio, la mia figura è l'opera d'arte, tutto il resto è accessorio. Naturalmente non è così. Infatti Sgarbi ultimamente si è ripresentato in una foto nudo, c'è stata un'evoluzione rispetto alla una copertina che fece una volta lui nudo, si è rifatto fotografare nudo, lo fece anche, ti ricordi, Achille Bonito Oliva si presentò. Come no? Achille Bonito Oliva su Frigidaire, certo. E a un certo punto venne fuori che l'idea che il lettore dell'arte, il mercante d'arte, che stiamo parlando di persone che questo fanno, l'interprete d'arte, il critico d'arte, diventa lui stesso l'opera d'arte. Ecco, come accade questa deriva? Accade perché intanto chi fa il gallerista o il mercante più delle volte è simile a quei critici che avrebbero voluto scrivere e non ce l'hanno fatta e quindi fanno i critici letterari, o come quegli aspiranti ballerini che inciampano e cadono e si fratturano qualcosa in giovane età e poi diventano... Come Aldo Grasso sta a Maria De Filippi, per capirci. Non proprio, dai, non proprio, perché qui è peggio, perché c'è un'invidia che rode il gallerista o il mercante, anche perché se pensi a personaggi come galleristi come Leo Castelli ha rischiato di eclissare i suoi stessi pittori, poi vabbè, sono diventati molto famosi, uno per tutti Warhol e gli altri della pop art, o anche Saatchi, Charles Saatchi, questo grande collezionista inglese, è quello che ci ha fatto scoprire Hirst e così via. Loro, sai qual è il loro segreto? Che loro restano, invece gli artisti che loro cercano di lanciare durano veramente lo spazio di una stagione e poi scompaiono, ma i galleristi, i collezionisti e i critici restano e quindi diventano figure più importanti di coloro che hanno lanciato, di coloro di cui parlano. Quindi diciamo in realtà loro hanno questa sorta di pretesa di fissare nell'eternità ciò che per sua stessa natura è transeunte, nasce con questa condanna perché non sono artisti e non lasceranno nessuna traccia. Quindi uno continuamente, come una sorta di crono che si mangia i figli, divorare sempre roba nuova per resistere loro. Però non vorrei fare dei salti avanti, sennò diventiamo anche noi dei nemici del popolo. Ritorniamo a dei punti fermi, riconoscibili anche da chi ci ascolta. A voi ti piace questo quadro? Che quadro quello? C'ha tre occhi? Ma lo vedi, non capisci niente di pittura, è una donna, no? E che, le donne c'hanno tre occhi? Ma tu non devi guardare il numero degli occhi, devi guardare la silhouette, della fan, di Picasso. Un mi occhio in fronte e la mente, vedi? Per favore, l'altro occhio è il cuore, l'altro dai, è life, la mente, life. Ah, Paolino, ce l'hai qui sotto l'occhio, e sveglia! Ecco, proprio per darti ragione, per dire che il fenomeno è antecedente rispetto alla contemporaneità che stiamo in questo momento raccontando, questo è il Conte Max, che fra le tante caratteristiche della nobiltà che a lui sfuggiva, che era convinto di avere, c'era anche quello di allora interpretare l'arte contemporanea, che allora si chiama l'arte astratta, e Picasso era il primo esempio di discussione, lo presenta al quattrone di passaggio, dice ma è una donna con tre occhi. Ecco, vediamo di ricollocare questa sintomatica scena. Quello è un momento epocale sia nel film poi anche nella vita, perché comunque è stato il periodo in cui le grandi avanguardie, che sono nate all'inizio del Novecento, praticamente nel periodo di passaggio tra i due secoli, arrivano a livello popolare, diventano materia da rotocalco. Picasso, citato da Sordi, perché lo vede su un quotidiano, un settimanale che magari nella pagina prima aveva un gossip, diventa veramente come la Raffaele che fa la parodia della Marina Abramovic. Cioè, è il personaggio più famoso, più visibile della disciplina, che colpisce la fantasia del popolo. Quindi, come la Abramovic colpisce il popolo perché sta seduta su una sedia per 9 ore e non fa niente, così Picasso aveva colpito perché, prima di tutto, aveva una vita sociale particolare, la Costa Azzurra, i divi, Parigi e così via. E poi perché faceva queste donne con tre occhi, perché quello è l'elemento che colpisce il popolo, ovvero Alberto Sordo in quel momento. Di solito la reazione era quella dell'aiutante che dice: ma è che è una donna quella. Invece Alberto Sordo, che voleva dimostrare di essere superiore al popolo, di far parte dell'aristocrazia, finge di capire questa immagine che in realtà non capisce assolutamente. Ecco, allora ti pongo una domanda che parte dalla mia esperienza personale. Io nasco umbro e negli anni di cui stiamo parlando, naturalmente, per Perugia, Città di Castello, girava molto Burri. Il medio avvocato, medico umbro e perugino, quando andava a vedere a Città di Castello i critti di Burri, diceva: ma questo sono capace di farlo anch'io. Questa era la lettura più banale. Le mogli, che invece volevano sembrare all'altezza della situazione, dicevano: non capisci nulla, sono ignorante, non capisci con opera d'arte. Ecco, deciframi questa mia esperienza fanciullesca. Beh, prima di tutto, il luogo in cui eri ti portava forse a vedere con più diffidenza queste opere nuove. Beh, sai, alle spalle c'è il Perugino, c'è una galleria d'arte fantastica. Tu avevi questa Giotto, avevamo Giotto Assisi, cioè capisci? Improvvisamente però la signora perugina, che doveva vivere pienamente i suoi anni 60-70, diceva al marito che in realtà no, quella era arte. Chi aveva ragione dei due? Avevano ragione entrambi. Il problema sai qual è stato? Che abbiamo continuato a usare questo termine arte sia per il Perugino sia per Burri. Invece a un certo punto l'arte veramente non c'è stata più, o ha preso un'altra strada che purtroppo è diventata quella dei pittori dilettanti, dei tuo mondo scrofalo, delle estemporanee che fanno in qualunque paesino. E invece quella che era ricerca ha acquisito questo nome di arte, invece era ricerca, perché cercava qualcos'altro. Era un percorso, bisogna dire, questa è gente che sta sperimentando, sono delle prove. Sta facendo altro, esatto, sta vedendo i materiali. Allora, siamo circondati, in quel periodo eravamo circondati dai materiali plastici. Magari c'era la sera in TV a Carosello Gino Barmieri che presentava il Moplen. E non puoi andare avanti a fare ancora l'olio su tela. Capisci? Sei incuriosito da altri materiali, la plastica, oppure sì, ma nemmeno prendere una fiamma ossidrica e fondere 2 o 3 catini di Moplen di Gino Bramieri e Moplen e dire che era arte, ecco. Ai tempi sarebbe stato perfetto, sarebbe stata una ricerca perfetta. Oggi farebbe ridere, oggi fanno tutti ridere. Io penso che oggi la ricerca sia finita, come era finita l'arte. Oggi la ricerca è finita. Anche perché ogni ricerca alla fine deve dare dei risultati, deve dare delle evidenze condivise. Se non ci sono le evidenze, la ricerca è stata fatua, tempo perso. Fermiamoci un istante, Tommaso, fra un istante. Melog. Cronache meridiane. Ditemi se c'è un grande museo al mondo che non ha già in parete un'opera di Villeglie. Queste sono opere che oggi avete la fortuna di comprare a prezzi che nel giro di pochi anni saranno ridicoli. Lo devi comprare adesso che te lo regalo. Lo devi comprare adesso, perché questa è museale. E ve lo metto per iscritto. Che vuol dire museale, Tommaso Labranca? Mi spieghi cosa vuol dire un'opera museale, un'opera che devi comprare perché è un investimento? Ma si compra perché è un investimento o si compra perché tu hai una tale raffinatezza di gusto e di comprensione dell'arte che i tuoi soldi preferisci spendere in un'opera d'arte piuttosto che nel lingottino d'oro o nella moneta con la testa di Papa Giovanni? Della ex telemarket, che ormai assume un nome diverso ogni 10 minuti, erano lì per fare investimento, perché guardavano e dicevano alla moglie: guarda, abbiamo quei 5.000 euro da parte, cosa facciamo? E lei diceva: compriamo questo quadro perché è museale. Museale vuol dire che è degno di stare in un museo, che un qualunque quadro in teoria dipende dal museo. Beh, dipende dal museo. Certo, la Prologo di Rocca Cannuccia può anche prendersi uno scrofalo benissimo. Esatto, però nell'accezione di telemarketing, continuo a chiamarla così, Museale significa opera di eccesso livello, e naturalmente tutte, come dire, abito sartoriale, ti rendi conto? Abito sartoriale è la stessa cosa. Che vuol dire? Questa è una giacca sartoriale, mi dicono. Per farmela digerire costa 200 euro invece che i 70 euro da bancarella. È sartoriale. Chiedo, ma che vuol dire sartoriale? È sartoriale. Ma è fatta, è fatta da un sarto? No, ma è sartoriale. Ma, vabbè, ecco, così quelle opere sono museali. Come ti dico, tutte le opere che presentano sono museali. È molto bello anche questa cosa che lì sto presentando Villegrin. Quando presentano un'opera storica dicono non comprate le promesse che domani non saranno mantenute. La trasmissione successiva c'è la promessa a un pittore di 15 anni, queste sono le opere su cui scommettere, cioè, c'è anche una schizofrenia continua che è quello che poi mi fa apprezzare e amare quell'emittente. Te la faccio risentire perché ha avuto un senso, secondo me nella storia della subtelevisione ha avuto un suo senso Telemarket. E quello che dico... Io accetto il contraddittorio con i più grandi critici e storici dell'arte del mondo. Poi mi arrabbio se mi porti un qua qualsiasi che non sa nemmeno chi è Villeglé e gli fai pronunciare chissà quale discorso. Chiaro, logicamente, vedi, è diciamo lo stesso format attraverso cui si vendono pentole, si vendono creme dimagranti, si vendono fasce vibranti. In quel tipo di televisione si è venduto di tutto. Però c'è qualcosa in più, c'è quasi la pretesa che Francesco Boni abbia la possibilità di attingere attraverso fonti che non sono aperte ai più. Sì, perché loro, lui, ma anche gli altri di Telemarket, hanno avuto questi rapporti diretti con gli artisti. Praticamente sono tutti stati compagni di classe di Mario Schifano, anche se poi ci sono delle diversità di età spaventose, ma tutti erano amici di Mario Schifano, lo vedevano continuamente, ma tanto è morto. Però vedi che si portano dei trash di Schifano, hai sentito la clip prima? Quello che essere uno schifanoide, non so chi sia, il signore intervistato era uno schifanoide nella sua immaginaria capacità creativa di un format televisivo. Se poi aveva anche lui problemi, due volte l'olio santo, insomma, come le incarcerazioni di Schifano. Ma sai cos'è? Che in realtà quel Telemarket ha un suo valore, perché comunque continua a presentare gli stessi autori da anni. Per cui ce li ha fatti diventare così familiari che alla volte crediamo che siano anche famosi, che siano anche importanti. Invece sono magari degli onesti paesaggisti, degli onesti figurativi, che loro lanciano. Per esempio ce n'è uno che è Atos Faccincani, che fa dei quadri molto colorati e che viene lanciato sempre come il maestro italiano dell'arte vivente. E sottolineano sempre questa parola vivente, che una volta anche Faccincani disse scusate, ma potete evitare. Si tocca le palle ogni volta che lo dicono. Continuamente. Immagino. Anche perché non aspettano altro che muoia perché acquisti valore, probabilmente. È certo che quando un artista muore non può più produrre niente, quello è il suo corpus e devi beccarti quello. Comunque non puoi più sperare di avere altro, e quello che c'è aumenta di valore immediatamente. Non succede con tutti naturalmente, però questa è la allora ti faccio un esempio sempre tratto da spunti presi dal tuo libro, che ricordo Vragina Roda, che è un termine russo, dice vuol dire nemico del popolo, viaggio allucinante tra creatori, mediatori e fruitori dell'arte. Ecco, sentiamo questo. No, mi dà fastidio che tutte le volte dobbiamo andare via uno che per una fotografia che magari non è il peggiore, però quella volta lì fa una fotografia che non è giusta e perde il posto. No, non lo farei così io. Non, l'Italia non lo faccio, io sono per giudicare. Ma esistono delle mode, esistono delle tendenze di moda che chiaramente sono facili da seguire, da copiare. Chi non ha idee le cerca, quindi quando cerchi un'idea vuol dire che non ce l'hai. Questo è Oliviero Toscani, che è giudice in un talent show su Sky, Master of Photography Talent, che giudica il talento dei fotografi. Quindi come Selvaggia Lucarelli diventa giudichessa dei ballerini, come altri personaggi importanti, come Simona Ventura diventa giudichessa dei cantanti, non so, anche Toscani entra nella giuria dei talent. E la fotografia acquista, in questo punto di vista, la sua vera dimensione di produzione artistica rispetto alla cultura pop, proprio perché viene trasposta come l'arte entra dentro Telemarket. È giusta questa lettura, secondo te? Sì, questo è giusto, perché la fotografia è ancora più facile mistificare con la fotografia di quanto non si faccia con l'arte concettuale. Da Instagram in poi, chiaro. Sì, da Instagram, anche questi che fanno le foto, cioè io cito anche i suoi divi che a un certo punto non sanno più cosa fare e fanno i fotografi, mettono su una mostra di fotografie fatte magari con la Polaroid, figura che proprio non ci vuole niente. E quindi la fotografia diventa una trappola, perché poi i veri grandi fotografi spariscono, scompaiono, non vengono. La Lollobrigida fu la prima, o sbaglio? La Lollobrigida fu una delle prime. Fu una delle prime, prime che disse, che improvvisamente ero bambino, non capivo, ma perché questa fa l'attrice improvvisamente fotografa? E non si sa, anticipò si sa. Belen che si fa le foto della pastra e le mette su Facebook, la stessa cosa. Sì, stessa cosa. Su però, piani diversi, totalmente diversi. Esatto, perché comunque la Lollobrigida era convinta di essere una fotografa artistica, cioè di fare arte con la sua foto. Poi le foto avevano lo stesso livello dei suoi vestiti di broccato e damasco, non cambiava molto, capisci? Quindi è più onesta a un certo punto Belen, che mette in scena se stessa come una nuova Abramovic molto pop, piuttosto che lei quando faceva quelle foto. Quindi adesso poi appunto con Instagram, con Tumblr, questi sistemi, questi siti, tutti possono dire faccio il fotografo, anzi faccio il fotografo artistico, perché poi scopri, come sto scoprendo, che tantissimi fotografi artistici in realtà vivono facendo le foto ai matrimoni, e vivono sempre meno, visto che i matrimoni anche cala il numero dei matrimoni. Sì, conosco bene, molto da vicino, questa triste realtà di un grande fotografo che vince premi internazionali, che mi sta molto vicino anche quotidianamente in questa trasmissione, che per mantenersi in vita arriva a fare foto ai battesimi, alle cresime, ai matrimoni, arrivato addirittura a fare le funerali, delle foto post morte, ma bisogna pur vivere. Con questo triste, drammatico epitaffio che dedico al mio compagno di vita, d'avventura, Fabrizio Intonti, saluto Tommaso Labranca, ricordo autore del libro Ragnaroda, viaggio allucinante tra creatori, mediatori e futuri dell'arte, edizioni 20.090, un libro che consiglia a tutti quelli che vogliono finalmente prendersi una rivincita, quando a tavola non sanno cosa rispondere ai loro amici che parlano d'arte, comprate questo libro, imparate a memoria alcuni passaggi, li ammutolirete all'istante. Alla prossima!